finisce la lezione. È solo chiacchiere distintivo, solo chiacchiere distintivo. Luglio 2018, 22:55. Le frequenze, gli 87,9 della banda romana e laziale, della modulazione di frequenza. L'emittente Radio Onda Rossa è lo spazio che state ascoltando. È 25 o'clock da molti anni. Ogni mercoledì notte / giovedì. Dobbiamo confessare che abbiamo passato una settimana ascoltare note sintetiche, non nel senso dotate del dono della sintesi, ma artificiali, fatte con drum machine e aggeggi vari. Per arrivare a una selezione di 10 tracce che manderemo a settembre. E perciò che abbiamo detto, vabbè, chiudiamo l'anno radiofonico con un po' di ricordi, perché per 25 o'clock questa è l'ultima trasmissione dell'annata 2017-2018. Si riprende appunto dopo una pausa a settembre. Ripercorriamo al solito, o come ovvio meglio, le tappe di quest'annata passata insieme a tanti e tante. E ripercorriamo anche alcuni esperimenti fatti durante l'anno. Perché questo è l'ascolto notturno di Radio Onda Rossa. Anche in questi mesi estivi comunque ci preme di sollecitarvi il vostro contributo. Poiché la radio rimane comunque sempre accesa, lo deve fare, è anche sempre aperta. Semplicemente dobbiamo riordinare un po' gli strumenti e le suppellettili della radio stessa, perciò. Dicevamo, rimane accesa, e con rimanendo accesa le spese, il contatore delle spese della radio non si ferma mai, nemmeno in agosto, e perciò che c'è sempre il conto corrente postale della radio 6180401 da intestare a Cooperativa Culturale Laboratorio 2100185 Roma San Lollo. Ma c'è sul sito www.ondarossa.info, che comunque continueremo ad aggiornare. Sul sito c'è una paginetta dedicata alle modalità per sostenere questa radio. ancora giusto dire questa radio per sostenere la radio. E quindi Disconnection Notice dei Sonic Youth ha fatto il suo lavoro, ci ha disconnesso. Man came in the mail today. They seem to think I'm disconnected. Don't think I know what to read or how to say. Glossaries dall'apatia quotidiana. Perciò e aggiungo una cosa ancora. I would like to add one more thing. Sure. I consider that the flag of the United States not only a flag of a country, but is a universal message of freedom and democracy. Thank you, sir. This English is very good. questi vengono da Roma, sono Alma Irata. Dal loro Deliverance del 2016, credo, 2016. Dico credo perché lo cercavo sulla copertina, ma... Ma non è indicata la data di registrazione sul disco. Però ricordo che ne parlavamo, mi sembra 2016, non vorrei dire cose inesatte, comunque. Un lavoro assolutamente ben fatto, ma Alma Irata dal vivo c'hanno un altro passo, ve lo dico. Se vi capita di... ritrovarvi ad incrociarli da qualche parte. Hanno suonato per la radio qualche tempo fa. Ma al momento non facciamo scendere. Il bel muro potente di suono che producono Alma Irata per passare a qualcosa di altrettanto solido. Chiudete il becco! Se avete paura di farvi la bua, non giocate a calcio! Chiudete il becco! Se avete paura di farvi la bua, non giocate a calcio! Tornatevene a casa dalla mamma, se non sapete rischiare neanche le vostre gambe per il calcio! Le partite si vincono attaccando! Chiunque si trovi sulla mia strada se la vedrà con me! Sono Mark Lenders, la Muppet è la mia squadra, ed è così che ci ho fatto! L'ultimo giorno sulla terra di Mark Lender. Lasciali Clifford, ora sono calmo. Il giorno come un cane, per darmi un po' di pane, un'istruzione, un'opportunità. Sognava di elevarmi ad un gradino superiore, pagando col sudore la mia ascesa nella società. Ma il calcolo purtroppo si rivela inadeguato. Non si può mai prescindere dal posto in cui sei nato. Se nasci proletario e non hai voglia di obbedire, le strade che fare, sono semplici da dire. Ieri il pugilato, oggi il rock and roll. Lunga vita Tyson, finché suona il gong. Siamo maleducati, siamo figli della mo. E ci va bene così. E ci piace così. Certo preferito una carriera a Mediaset in banca nel Corriere della Sera. Ma forse non si accorta che da dietro le poltrone la voce che si sente è sempre quella del padrone. Ieri fucilato, oggi rock and roll. Lunga vita Tyson, finché suona il gong. Siamo maleducati, siamo figli dell'amore. E ci va bene così. E ci piace così. Chiuso dentro un angolo, lo spazio si fa stretto. Mi appoggio un po' alle corde, ma la spugna non la getto più. Calcolo il momento, poi parto col diretto. A volte mi va bene, qualche volta invece vado giù. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ieri fucilato, oggi rock and roll. Lunga vita Tyson, finché suona il gong. Siamo maleducati, siamo figli dell'amor. Ieri fucilato, oggi rock and roll. Lunga vita Tyson, finché suona il gong. Siamo maleducati, siamo figli dell'amor. E ci va bene così. E ci piace così. Let's go! I buoni vecchi Pancreas. È sempre un piacere sentirli, riascoltarli anche nelle loro produzioni un po' più recenti. Continuano. Continuano a girare e a fare qualche cabatina qui a Roma di tanto in tanto. Ricordi, primi del 2000, tra boschi e prati verdi, sono riscaldati. Una band che partiva dall'underground milanese degli anni 90. Poi non ci fa mano a mano, insomma, ha fatto il suo percorso. Che aveva garantito un deserto. Su una duna che già... Credo che al momento ci campino facendo questo lavoro del suonare rock and roll. So. Ma magari anche no, magari. È un'illazione, non abbiamo mai avuto modo di intervistarli live, Pancreas. Invece poi... Siamo andati a vederli un paio di volte in un paio di occasioni qui a Roma, anni addietro. Dito un deserto dei cammelli su una duna che da Bergamo a Verona osserva la partenza della gente del... E insomma sì, suonano bene, hanno un bello spettacolo, ma soprattutto quello che dopo tanti anni, malgrado tutto e tutti, continuano a essere piuttosto pungenti. Insomma, dire sempre la parolina giusta al momento giusto, una grande capacità di comporre canzoni. E da una band che, insomma, era dell'underground quando la passavamo noi. Molti, molti anni fa. Padani che il sole del deserto ha trasformato in beduini. Dico che in Islam. A una band di ragazzetti nuovi nuovi, con grande potenza ed energia. Forse pure troppa, veramente irrefrenabili. Barbed Wire. Anche loro hanno suonato con Alma Irata. Un concerto da loro stessi organizzato al The Frag. Della zona pronti per sfidare il mare, andare verso. Quarta traccia era un My Neck Barbed Wire, Onda Rossa 25 o'clock. Forse un po' di pioggia sull'ultima spiaggia. sick mind so friendly is how you seem so innocent. Tell me, look at you, was excited to try. That time you'll be my porn queen, I'll be your boy, bitch. Will attract more foreign investment. They will earn more trade revenues. And they will find that all of these sources of capital will be invested more effectively and productively. We'll be right back. So Fuck It Confused, SFC, da Taranto. Hoping that things we sacrificed our life fighting the apartheid regime, hoping that things would be better. We are going for a revolution. Tira l'altra. Resistance and the Worm, SFC. Come venne in fette, se sono un nemico impasto al circo della rabbia cieca, sopra una bacheca e un'altra ancora semine di collera e raccolti di consenso. Poter facili in un'urna di odio senza direzione, senza un vero senso. Barricate di opinioni strumentali ad un potere o ad un altro. Vedo nel gioco al massacro 2.0 propaganda. Le idee al guinzaglio perché tutto cambi per poi non cambiare affatto. Siamo vittime complici colpevoli nostro malgrado. Quando scegliamo per paura un nemico facile, in questo tutti contro tutti dove non ci sono regole. Siamo vittime e complici colpevoli nostro malgrado. Quando le nostre convinzioni sono un'arma che torna indietro forte più di prima. Siamo tutti contro tutti in un'arena di follia. Tutti contro tutti in un'arena d'odio e fango. Tutti contro tutti ed una sola testa a capo. Dividi e impera, se i predatori sono prede. Dividi e impera, la storia si ripete. Tutti contro tutti in un'arena d'odio e fango. Tutti contro tutti ed una sola testa a capo. Dividi e impera, se i predatori sono prede. Dividi e impera, la storia si ripete. Acciaio e malattie dentro il Kali Yuga. Accampati sulle spiagge di Tortuga. Cerco una via di fuga dall'età del ferro, di cui fatta l'ascia di guerra che di sotterro. Costruisce, distrugge, taglia e strappa. Si calma, ribolle schiuma. Parla, tace e urla. Noi siamo il sangue nuovo nelle arterie della città. Il corpo dei campi di piade. Il filo del tessuto di idee. Siamo vittime e complici colpevoli nostro malgrado. Quando scegliamo per paura un nemico facile, in questo tutti contro tutti dove non ci sono regole. Siamo vittime e complici colpevoli nostro malgrado. Quando le nostre convinzioni sono un'arma che torna indietro forte più di prima. Siamo tutti contro tutti in un'arena di follia. Tutti contro tutti in un'arena d'odio e fango. Tutti contro tutti ed una sola testa a capo. Dividi e impera, se i predatori sono prede. Dividi e impera, la storia. te. Tutti contro tutti in un'arena d'odio e fango. Tutti contro tutti ad una sola testa a capo. Dividi e impera, se predatori sono prede. Dividi e impera, la storia si ripete. Apro virgolette, il nuovo, chiudo virgolette, la furia, uscito a dicembre 2017, presentato qui a gennaio 2018. La via del Ronin. Guerra agli umani, guerra a me stesso, al mostro del capitale, a questa folle corsa che chiamano progresso. Guerra al tempo, alle sveglie, al lavoro salariato, ad ogni vostro compromesso. Una città salotto idealizzata, difficile da staccare. Deportati da quartieri, dati in pasta a nuovi ricchi e falsi artisti. Guerra allo Stato, al denaro, al cemento armato, ad ogni sogno confezionato e definito. Ottime impressioni ascoltando i commenti in giro. Pianteremo un cuore. Guerra. Rispetto a questo sound nuovo, questo suono rielaborato per quanto riguarda la furia che si stacca le macchine e i motori. Guerra noi stessi. Dal apro virgolette classico, chiudo virgolette crossover, alla Rage Candy Machine. Guerra all'asfalto, alla folle produzione, al profitto come moto della nostra evoluzione. Guerra al domani. E ancora grande capacità di comunicare concetti alle volte anche difficili con parole semplici. Soprattutto è metterle in un contesto tanto suggestivo da non poter esaltare quello che si dice e si racconta. Punto, punto senza alcun. Onda Rossa 87.9, la modulazione di frequenza, www.ondarossa.info il sito, 25 o'clock@ondarossa.info la mail del sottoscritto, ondarossa@ondarossa.info per le vostre comunicazioni alla radio. 06-4917-50 il recapito telefonico della radio. Vi diamo se ci siete. Saccheggiando fino all'ultimo pesce del mare, in una corsa mille sul binario del benessere. Ci illuderanno che non ci sarà una fine. Guerra agli umani, ai modelli produttivi, ai piani quinquennali, alle macchine e ai motori. Guerra a noi stessi, alle nostre convenzioni, ai bisogni che ci impongono invisibili padroni. Guerra all'asfalto, alla folle produzione, al profitto come moto della nostra evoluzione. Guerra al domani, agli umani, dagli umani, per riprendere il presente, riprendere se stessi, una guerra personale. Si stacca, si va avanti, ancora un'altra produzione. Non non ancora uscita, è presente solamente in forma digitale. Loro sono Pax Armata. Anche loro sintetici, così, con storie molto difficili. Oblio. Qui Alan Cano una specie di segnale di chiamata, comandante. Dia il ricevuto. 2 secondi al contatto visivo. Messaggio in arrivo, comandante. Questa è la voce del Voyager 1. L'astronave non ha a bordo né uomini né armi. La nostra è una missione di pace per tutto l'universo. Il Voyager 1. Carter, Abrams, allontanatevi, allontanatevi! Piloti sotto forte tensione. Aquila 1 e 2, mi sentite? Ala, mi sente? Risponda! Sono scosso da forti vibrazioni! L'astronave entra in autorotazione! I comandi non rispondono più! Aquila 2 senza controllo! L'astronave sta andando alla deriva! Sì, per 15 anni il Voyager ha fotografato altri pianeti. ha analizzato altre atmosfere, ha osservato altre forme di vita, ha registrato altre gravità, temperature. Pensa solo a quante informazioni mediche avrà. Ci vorrebbe almeno un secolo per conoscere quello che già conosce il Voyager. Certo, lo capisco. Piacerebbe molto anche a me mettere le mani su quelle informazioni senza dover tener conto della nostra sopravvivenza. Ma non possiamo ignorare le conseguenze della spinta di quelli. Un po'. Victor, quell'astronave ha due sistemi propulsori, vero? Esatto. Un comune razzo da reazione chimica che serve per il decollo e l'atterraggio e il motore di Queller per il superamento di grandi distanze nello spazio. Quello che rende possibili i viaggi interstellari. Esatto. Ma molto però non c'è equipaggio. Quindi come avviene il passaggio dal razzo di partenza al motore di Queller e viceversa? Per mezzo di un computer. Benissimo. Allora, che cosa ci impedisce di riprogrammare il computer a bordo del Voyager? Di dargli le istruzioni necessarie per spegnere il motore di Queller? È un rischio che non possiamo correre. Per me, invece, è inammissibile non tentare. Comandante, Aquila 1 è scesa. E Carter? È ancora in terra. Bene, lo mandi al centro medico. Sì, sì. Sì? Che se volete salvare il Voyager, lo fate a rischio delle nostre vite. Ho capito. Vado a studiarmi le conseguenze sul corpo umano dei neutroni accelerati. Ellen, non siamo ancora in tempo. Ancora no. Il cervello con cose che non capisci. Quando è fallito dalla terra, supportare ancora i calzoni corti. Sì, è vero. Ma questi scherzano con la spinta di quello. Non si ricordano di quello che è successo con il Voyager 2. Sa cosa vogliono fare? Vogliono fermare. Spegnere il motore quello. Voyager 1, qui parla il comando delle operazioni spaziali a terra. Ti ricevi? Ricevuto. Predisponi i tuoi circuiti di comando a nuovi ordini. Richiesta respinta. Qui è la sala controllo a terra delle operazioni spaziali. Ricevuto. Voyager 1, cancella gli ordini della tua memoria e predisponiti a nuove istruzioni. Richiesta respinta. Su quali basi? Le istruzioni non sono autorizzate. Io ti ordino di cancellare le istruzioni avute dal tuo comando. Richiesta respinta. Le istruzioni originali non possono essere cambiate se non precedute dal codice di cancellazione. Se ne rischia, professore. Deve esserci un modo per fare a meno del codice. Sì, un modo c'è. Comandante. Professore, un modo. Scusa, cercherò di spiegarmi nel modo più semplice. Ma prima dovete convincervi che il controllo dei comandi obbedirà soltanto a ordini e segnali esattamente prestabiliti. Perciò tenete presente che ogni tentativo di fermare il Voyager con altri sistemi potrebbe attivare il meccanismo di autodistruzione. E lei come lo sa? conosco un po' la materia, comandante. Mi sono interessato al progetto del Voyager. Sì, abbiamo capito. Chiamavo Queller. Ernest Queller. Proprio così. Grande motore Queller. Ernest Queller. Sì, si chiamava Queller. Prima che fosse assegnato ad Alfa, il comando a terra gli cambiò il nome in lingua. E nessuno di noi lo sapeva. Per il lavoro che svolge quassù era a posto. Se ha scelto di mantenere l'incognito, sono affari suoi. È un tipo di riservatezza a cui ognuno di noi ha diritto. Anche se Linden ha cambiato nome, quello che ha fatto purtroppo è la spinta di Queller. Ha ucciso Abrams, se lo ricorda? Questo si aggiunge al resto. Ma io ripenso a 15 anni fa, alla seconda astronave, Voyager 2, il cui motore Queller non fu spento in tempo. Ma Paul... qualcosa non funzionò. 200 persone morirono perché qualcosa non funzionò. Un'intera comunità spazzata via. Tra loro c'era mio padre. Già lo so che qualcosa non ha funzionato. Mi rendo conto che per lei è un argomento difficile. Ma non siamo qui per giudicare moralmente. Siamo qui per decidere se un uomo di nome Ernest Linden può aiutarci. Vorreste affidare nelle sue mani la sicurezza? Victor, ci puoi garantire che riuscirai a spegnere il motore Queller in tempo? Cara Victor, no. Sentiamoli. Vengano. Professor Reed, a noi servono le informazioni contenute. Voglio sapere se lei può spegnere il motore Queller per farci recuperare delle informazioni. Non abbia paura, ci penso. Voglio sapere se può farlo con i mezzi che abbiamo su Alfa. E se le basta il tempo che abbiamo ancora a disposizione. Quanto è? 9 ore e 10 minuti. Sì? O no? In teoria sì, è possibile. Sì o no? Il comandante Crowley. Non sarei neanche sentito di avere ma... adesso... oggi sei... mi chiede di assumermi un impegno del genere. Posso dirle soltanto che farò... quello che potrò. Farò del mio meglio. Grazie, professore. Nessuno deve sapere chi è. Come? Neanche Jiménez. Ha perso padre e madre per colpa di quello. Dovrebbe sapere con chi lavora. Ben credo. Questo va oltre le mie capacità. È che non riesco a capire i suoi calcoli. Non preoccuparti, Jim. Sei lo stesso un ottimo assistente. Prova a pensare a quando andavi a scuola. Certi principi dovevi accettarli sulla fiducia. E anche in questa tua incertezza di oggi, accetta questi miei calcoli sulla fiducia. Devi procedere esattamente come ti ho detto. Mi serve il tuo aiuto. Ah, professore, temo proprio che non sia il mio campo. Ho studiato un po' i neutroni, ma è stato parecchi anni fa. Questo è quanto di meglio ho potuto fare. Ecco. Ah, la ringrazio molto. Ha fatto progressi. Sì. Lei saprà che il tentativo di spegnere il motore di quelli è il tempo prestabilito mentre si avvicinava a zone abitate. già fallito uno. E ha avuto delle conseguenze per me. Sì, lei ci avrà pensato spesso. Ah, e tu? Ho valutato tutte le possibilità. E migliaia di volte. E ora ho la certezza di aver capito le ragioni del mio disastro. Perciò devo giocare d'azzardo basandomi sulla premessa che ho ragione. Giusto. Sandra, mi informi se il Voyager 1 cambia rotta. È costantemente sotto controllo. Bene. Alan, è pronto un piano se non riusciamo a fermarlo? Sì, un'operazione in tre fasi. Guardi lo schermo. Quando entra nella zona verde, tre astronavi si preparano al decollo. Se riesce ad entrare nella zona gialla, spostiamo le tre astronavi in quei punti. E se dovesse entrare nella zona rossa, viene immediatamente disintegrato. Bene. Via col conto alla rovescia. Haynes, vorrei parlare un momento con te. Ah sì, su. Jim, quei componenti al quarzo dovrebbero essere pronti. Quanto le manca? Non molto, credo. Una volta completata la coppia dei circuiti, potremo cancellare i precedenti ordini del computer e dopo sarà abbastanza semplice spegnere il fattore. Probabilità di fallire? Nessuna. Vede, quel motore l'ho progettato io e so come facerne. Occorre solo te. Vuole altri aiuti? No. Mi auguro che non sia una professione se stesso. Aquila 6, 9 e 10 sulle piattaforme. Aquila 6, 9, 10, allarme giallo. Pronti al decollo. Via. Sentiamo. Auguri. Base Alfa ad Aquila 6, 9 e 10. Pronti ad intercettare. Victor, si è fatto vivo lì. Forse ce l'abbiamo fatta. Credo proprio di sì. Su, attiva il circuito. Funziona! Funziona! Circuiti sono a posto. Ora possiamo agire sul computer di bordo. Il codice non serve più. Dobbiamo soltanto collegarci e poi spegnere il motore. Ah. Possiamo agire sul computer di bordo. Il codice segreto non serve più. Come può esserci riuscita? Professore! Come faceva a conoscere quei circuiti? Non puoi capire, Jim. La copia dei circuiti di comando l'abbiamo ricostruita insieme. La smetti! Impossibile. Solo un uomo poteva riuscirci. Solo un uomo sa come sono fatti i comandi. Lei è Ernest Wayne. È così? Avanti! Mi risponda! Ha ucciso i miei genitori, li ha uccisi lei! No. Ancora. Com'è successo? Haynes ha scoperto la verità. Comandante, non volevo danneggiare. Non... Ma ti rendi conto di quello che hai fatto? Idiota! Era l'unica possibilità. Non è colpa sua. Fuori di qui. Comandante. Fuori! Sì, sì. Voyager. Non possiamo più salvarlo. Forse possiamo ancora riuscirci. Sulle nostre teste ci sono 3 astronavi con i laser puntati sul Voyager. Aspetti prima di distruggerlo. Lei deve darmi il modo di finire quello che ho iniziato. Professore, lei sta cercando di risolvere un conflitto con se stesso, ma non c'è il tempo sufficiente per farlo. Posso riprendere il mio lavoro? Helen, assistilo come puoi. Va bene. Ci sono 3 oggetti. Seguono a grande distanza il Voyager. Identificazione positiva. Sono astronavi, comandante. Seguono la rotta della Voyager e si stanno dirigendo su Alfa. È l'ultima applicazione che posso fare. Perché non rinunci? Ho detto al comandante che potevo farcela e ne sono ancora convinto. Sta perdendo tempo. Il Voyager dovrà essere distrutto. È inutile che lo spieghi a lei, tanto non capirebbe. Stanno proprio seguendo il Voyager. Perché? Manteniamo posizione di intercettazione. Continuate così. Punti all'intercettazione. Aquile in posizione di fuoco. Ricevuto. Pronti al fuoco. Pronti. Voyager 1 è entrato nella zona rossa. Aspetti, Carter. Aspettiamo istruzioni per aprire il fuoco. Comandante. Dobbiamo dare l'ordine, immediatamente. anche io a lei. Dove vuole che faccia scendere il Voyager? Piattaforma 4. Alan, le tre Aquila restino dove sono. Ben, Paul, voglio ispezionare il Voyager appena scendo. Sì, signore. Complimenti, professore. Ci è riuscito in pieno. Ora vedo che deve tirare. Voyager pronto all'imbarco. Aquila 6, rientrare. Quelle tre astronavi sconosciute continuano ad avvicinarsi. Alan, le tenga d'occhio. Victor. Assolutamente sicuro. Nessun pericolo. Sa, mi fa uno strano effetto rimettere i piedi qua dentro. Come avrà notato, il progetto originale prevedeva un equipaggio. Per il futuro, ovviamente, quando l'uomo avesse sviluppato le tecniche dei viaggi interstellari. Ma si vede che per i Voyager non era destinato. Beh, da dove vogliamo cominciare? Professore, dovrebbe trovare una collezione veramente unica di informazioni scientifiche in questo raccoglitore di dati e anche in quello. Comandante. Dei Paul? Registriamo una considerevole attività magnetica all'interno del Voyager. Impossibile. Intensità in rapido aumento. Parla per tutti. Sono John Collier, comandante della base. John Collier, sei in comunicazione con Argo, giudice e difensore dei mondi confederati di Saidone. Cosa cerchi qui? Siete abitanti del pianeta Terra? Infatti. E accettate la responsabilità per la rudimentale astronave conosciuta come Voyager 1? Sì. Per conto dei miei simili? Sì. Allora tutti voi, incluso il vostro mondo, subirete il giudizio di Saidone. La vostra astronave Voyager 1 ha violato i mondi e gli spazi di Saidone in un'altra galassia. Era una missione di pace. Falso. La vostra astronave è scesa su due dei nostri pianeti abitati. È stata accolta con amicizia, secondo le nostre tradizioni. Adesso, ogni forma di vita su quei mondi si è estinta. Siete venuti proclamando la pace e avete portato la distruzione. Solo una civiltà retrograda può perpetrare tale genocidio. Dovete credere alle buone intenzioni della mia gente. L'alto consesso dei mondi confederati di Saidone ha stabilito che una cosa simile non dovrà mai più accadere. Abbiamo seguito la vostra astronave Voyager 1. Appena ne avremo individuato la provenienza, il pianeta e tutto quello che su di esso vive sarà distrutto. È una vendetta. Questo è un concetto sconosciuto nella fonte. Noi pensiamo che la vendetta sanzioni. emanata da un'autorità e comunque indice di una civiltà retrograda. La sentenza di Saidone non può essere cambiata. Tra poco le nostre astronavi entreranno nel raggio operativo. Appena avremo localizzato il pianeta Terra, anche voi verrete eliminati. Il mio popolo non ha commesso alcun crimine. Ci difenderemo. Vi avverto. Resisterci cambierà soltanto il modo con cui sarete distrutti. Non gli effetti. Non possiamo stare qui ad aspettare, attacchiamoli per primi. A giudicare dai loro mezzi è improbabile che potremmo farcela. Sarà un tentativo disperato. Alan, Aquila 6, 9 e 10 ai punti estremi di intercettazione. Sì, signore. Persone che antepongono la scienza alle loro responsabilità. Sì, è vero, lo so bene, ma la responsabilità per quello che il Voyager ha fatto a Saidone devo portarmela io, da solo. Due mondi resisterili, milioni di persone uccise. Io non volevo fargli del male, non volevo far del male a nessuno. Si dice che le vie dell'inferno sono lastricate di buone intenzioni. Anche le vie del cielo, a quanto pare. Che le vie dell'inferno, signore. Sono lastricate di buone intenzioni. Tutti gli scherzi. Ecco, John. Eccola qua. È la memoria del Voyager 1. Qui c'è tutto, pianeti, dati chimici, possibilità e forme di vita. Un pacchetto di notizie vitali. Ma l'ironia vuole che non avremo mai modo di usarle. Se tu fossi un totalizzatore, che probabilità ci darebbe? 50-50. 100-1. A sfavore? Non mi intendo di scommesse. A me basterebbe una via di scampo. Non credo proprio che Arcon ce la concederà. No. Distanza? 75.000. Aquila 6, 9, 10. Appena sono a distanza di tiro, fuoco. Siamo pronti. So che sei molto più forte, ma non... non cercare lo stesso. Non sto cercando di fermarla. Io voglio venire con lei. No, Jim. Devi renderti conto che io non ho scelto. Devo andare. E devo andare da solo. Distanza 10.000. La spinta di Queller. Chiamano dal Voyager. Linden. Comandante, attivate al massimo tutti gli scudi protettivi. È impazzito. Non esiste protezione contro la spinta. Richiami le Aquile. Ma sono l'unica difesa contro Saidone. Non è esatto, comandante. L'unica difesa possibile contro Saidone è la spinta di Queller. Ha chiuso il contatto. Distanza 5.000. Tutte le armi puntate e pronte al fuoco. Distanza 3.000. Faccia rientrare i nostri. Aquila 6, 9 e 10, rientrare alla base. Ma stanno entrando nel raggio di tiro. Rientrare alla base. John Connick, hai fatto bene a richiamare le tue astronavi rudimentali. In cambio, saremo pietosi nel modo di distruggerti. Marco, ascolta. Sono Ernest Queller. Sono l'inventore dell'astronave conosciuta come Voyager 1. Cosa ti proponi con questo John Connick? Queller sta agendo al di fuori della mia autorità. Il tuo popolo ha sofferto molto. Perciò puniscimi e non condannare un intero mondo per l'errore di un solo uomo. Il mio scopo era di riunire un universo diviso. E volevo riuscirci in nome della scienza e dell'umanità. Volevo illuminare i misteri dello spazio. Scoprire degli altri mondi. E offrire a tutti la mano dell'amicizia. Tra noi non può esserci dialogo, Ernest Queller. Arco, io ho commesso peccato di arroganza e di orgoglio. Ma sono soltanto io, il responsabile dei disastri del Voyager. Quest'altra gente non ha colpe. Queste giustificazioni sono respinte. John Connick, preparatevi a subire la sentenza di Saidone. Allora, Arco, non sei più meritevole di me. Di vivere. Thank you. distrugge il suo lavoro. Perché, comandante, perché? Se lo sapessi. Lavori con un uomo. Credi di conoscerlo, arrivi a rispettarlo. E a un tratto scopri di non conoscerlo. Era cambiato solo il nome. L'uomo... l'uomo era lo stesso. Dai quartieri delle città sento ancora lontano battere l'urlo selvaggio dei tagliaboschi, è un pianto che si perde nel vento. Prima c'avevamo un mestiere e canti e vino tutte le sere, dove a mezzogiorno sedevano in cento, ora cammina lento un ingegnere che trascina al guinzaglio una bestia d'acciaio. Torniamo indietro, si può fare, o portami via, volevo solo respirare. Non un'odissea attraverso il mare, giorno nero numero due, prendi in fretta le scarpe tue, di qua si va per il mondo moderno, senza legna per bruciare l'inferno. E lasciati alle spalle la campagna colorita, fantasmi di un'Italia sparita. Ah, Tony ha detto ci saranno milioni per chi ha voglia di spaccare mattoni. E comunque vada, anche senza vestiti noi saremo uniti. Torniamo indietro, si può fare, o portami via, volevo solo respirare. Attraverso il mare, provvidenza nella notte dei santi, torniamo indietro prima che sia troppo tardi. Troppi soldi e poche mani per contarli. L'ascia che mio padre usò, conosco i boschi del nord, perché mai dovrei chieder pietà per il pane e per la vita a me, per la vita mia. Giorno nero numero tre, c'è mio fratello steso accanto a me, lo scafo in barca qua dalla stiva, ed io non so se ancora respiro. Ricordi le giornate di fuori, chini sui filari di pomodori, un aeroplano sgancia una polvere scura ed un uomo bianco che fa paura. Ha fregato un negro, ora lo spinge indietro, torniamo indietro. Si può fare, o portami via, volevo solo respirare. Non un'odissea attraverso il mare, provvidenza nella notte dei santi, torniamo indietro prima che sia troppo tardi. Prima che sia troppo tardi. Thank you. children, my children, because they want what we've got, because we have and they have not. The enemy is poverty and the wall keeps out the enemy, and we build the wall to keep us free. That's why we build the wall. My children, what do we have that they should want? What do we have that they should want? We have a wall to work upon. We have work and they have none, and our work is never done. My children, my children, and the war is never won. The enemy is poverty and the wall keeps out the enemy, and we build the wall to keep us free. That's why we build the wall, we build the wall to keep us free. We build the wall to keep us free. E con Patato e Billy Bragg, di cui siamo orgogliosi di aver in qualche misura e in diversa misura presentato i rispettivi lavori, mantenendo i rispettivi piani. Chiudiamo qui 25 O'Clock e anche la serie che ci ha portato fino a questo 25 luglio 2018. Si riprende a settembre, insomma. La radio va avanti per un paio di settimane ancora. Poi pausa estiva, si riprende a fine agosto. Ma voi non spostate la manopola, il cursore. Lontano dagli 87 e 9, tenetelo là fisso, incollato. Perché sono anche in programma tutta una serie di repliche andate in onda durante quest'anno. Repliche di quella produzione ampia di informazione, cultura, politica che offre la radio. Vabbè, facendola breve, noi vi lasciamo qua con la compagna automatica, si riprende in diretta domattina con la rassegna stampa, i redazionali e il giornale. Ma sapete, siamo in una programmazione quasi estiva, per cui vediamo. Quel che va in onda di certo è tutta scena cinema. Attica Blues, non so se in forma di replica o in diretta. La Schiena del Sol, i Mezzedes. Vabbè, insomma, il nostro saluto più importante va a tutti e tutte coloro che ci ascoltano da condizioni di limitata libertà personale, carcere, latitanza, clandestinità, arresti domiciliari, tutte le altre costrizioni amministrative. This is what solidarity looks like. E noi ci risentiamo a settembre, fine settembre, bella così. Ce ne andiamo sotto la luna comunista, dai. Let it begin tonight.